Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. In principio fu la P2 di Licio Gelli, i suoi elenchi e i suoi segreti 30 anni fa. Poi, l'anno scorso, era estate piena quando scoppiò lo scandalo della cosiddetta P3. Ora, quasi allo scadere del primo anniversario, il numero viene aggiornato ancora e l'Italia fa i conti con una nuova inchiesta che, sotto la sigla della P4 stavolta, lambisce le alte sfere del potere, scuote la politica e ancora una volta sferza la stessa magistratura. È stato infatti un magistrato, Alfonso Papa, il parlamentare del PDL, per il quale la Procura di Napoli chiede l'autorizzazione all'arresto dopo aver mandato ai domiciliari già il potente Luigi Bisignani, l'uomo più conosciuto che io conosca, per dirla con le parole ai PM dello stesso Gianni Letta, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, terminale, secondo l'accusa, di notizie riservate riguardanti anche inchieste giudiziarie. Ed è una rete di fonti nelle forze dell'ordine, come di contatti nei servizi segreti, quella ricostruita dalla Procura partenopea, che di fatto ha riaperto una nuova questione morale all'interno della magistratura. Ripresa laddove era stata interrotta l'anno scorso, quando si parlava di uomini che sussurravano ai giudici, di nomine da decidere per le più alte corti e di importanti verdetti da prendere. Ora, cambiate gli interlocutori, cambiate le questioni e le procure, la vicenda si ripropone e il presidente dell'ANM, Luca Palamara, dice a Storiacce: per le toghe che scendano in politica, ora la scelta sia irreversibile. Una netta discontinuità con comportamenti che gettano discredito sulla categoria, ovviamente nel pieno rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza, però la credibilità della magistratura passa attraverso la credibilità dei comportamenti, ragion per cui di fronte a cadute deontologiche la nostra risposta non potrà essere che altrettanto dura, attivando quelli che sono i meccanismi statutari interni fino a chiedere appunto l'espulsione dalla magistratura. Ecco, Presidente, la scorsa estate, quando lo scandalo si chiamava P3, ci fu un grande dibattito all'interno della magistratura, all'interno soprattutto della corrente di Unicost. C'è qualcosa che manca ancora all'interno della categoria? Mi sento di poter dire che la svolta c'è stata, perché noi abbiamo voluto tracciare una lettanina di discontinuità con determinati comportamenti e soprattutto non abbiamo voluto essere indulgenti o avere tentennamenti. Parliamo di situazioni, di casi che riguardano in questo caso magistrati fuori ruolo. Il vero problema oggi che dobbiamo porci è il meccanismo di trasparenza attraverso il quale il magistrato viene chiamato a partecipare alla vita politico-amministrativa e viene chiamato ad avere incarichi fuori ruolo. Su questo bisogna mettere e tracciare dei paletti molto fermi. Quel dibattito interno iniziato un anno fa ha prodotto i suoi frutti, perché ha portato ad una modifica del codice etico, ha portato ad una chiara presa di posizione per quanto riguarda il rapporto tra magistratura e politica, ma ha portato ad una netta distanza da comportamenti che, ripeto, sono inaccettabili all'interno della magistratura. Si prospetta un giro di vite sulla collaborazione dei magistrati anche in incarichi politici all'interno dei ministeri? Da un lato limitare i fuori ruolo agli incarichi nei quali realmente è richiesta l'attività e l'opera di un magistrato, la seconda è un criterio di trasparenza, bisogna capire il meccanismo attraverso il quale avviene la nomina, avviene la chiamata. Si tratta, secondo lei, di meccanismi che oggi sono opachi? Il rischio è opachi soprattutto quando non è comprensibile il percorso che ha portato poi alla chiamata, alla nomina. Si riparla di nuovo molto di magistrati che poi finiscono col fare carriera politica. Secondo lei potrebbe essere ipotizzabile anche un tentativo di normare questo tipo di passaggi? Impedire al magistrato di candidarsi alle elezioni è impossibile, perché sarebbe andare contro la Costituzione. Penso che tutti debba essere riconosciuto il diritto di partecipare alla vita politica. I paletti noi li abbiamo messi, nel senso che soprattutto in determinate realtà, quelle locali dove il magistrato esercita la sua attività lavorativa, il nostro codice etico oggi ci dice di non accettare incarico politico-amministrativi. Su questo abbiamo chiesto l'intervento del legislatore, che da questo punto di vista è carente soprattutto per quanto riguarda le elezioni amministrative. Altro invece è il tema sul ritorno e l'ingresso in magistratura. Su questo penso penso che bisogna andare seriamente verso una scelta irreversibile. Se si va in politica poi non si torna. Una norma legislativa che stabilisca che chi entra in politica non possa più fare ritorno nelle toghe? È materia da legislatore che da codice etico, riterrei. Per quanto riguarda il profilo deontologico, indubbiamente vanno valutate ipotesi di incompatibilità nell'ambito associativo. Voi come ANM vi sentireste di suggerire, di proporre, di sottoscrivere e di favorire una eventuale... Penso che ormai questo è un tema che indubbiamente è di riflessione. Io mi sento di poter dire che la scelta deve diventare irreversibile. Deve diventare una scelta irreversibile per chi entra in politica. Esattamente. Il problema dell'apparenza di terzietà, di imparzialità, indubbiamente oggi dobbiamo porcelo. Dagli ultimi anni abbiamo il coraggio anche di interrogarci su quello che non funziona, quello che spesso invece la classe politica non fa. Divieto dunque a tornare alla toga per chi scelga la politica è la strada suggerita anche da Giuliano Turone, il magistrato milanese che indagò sulla prima associazione segreta, la P2 del maestro venerabile, nei cui elenchi trovarono un nome che torna anche nell'inchiesta di oggi. Giuliano Turone, verrebbe da dire, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati l'anno scorso. Parlavamo di P3, adesso scoppia lo scandalo P4. È questo ritorno di cosa? Di un sistema? Di un modus operandi? Che cos'è, secondo lei, che può affiancare quanto le indagini degli anni recenti stanno portando a galla a quello che era un sistema che avevate ricostruito lei e il Gherardo Colombo nella vostra inchiesta sulla P2 di Licio Gelli? L'unica cosa che io rilevo, che pare che sia indiscutibile, è che questa persona, questo signor Bisignani, in effetti appariva anche negli elenchi della loggia P2 sequestrati nel 1981. Detto questo, io nel corso di questi anni ho visto che quello che sembrava nel 1981 una crisi di questo sistema P2 che avrebbe messo fuori gioco coloro che facevano parte di questo sistema, in realtà fuori gioco non sono andati. Moltissima gente che appariva in quegli elenchi ha continuato, dopo un momento di crisi, ha continuato a esserci nei posti che contano in questo paese. C'è una continuità di questo sistema di controllo occulto degli interessi più rilevanti del paese che è venuto fuori nel marzo dell'81, poi nel maggio 81 la documentazione è stata resa pubblica, però mi sembra che quel sistema poi abbia continuato a esistere, pur in una dimensione palese invece che la occulta. Questa P2 era un sistema per controllare la vita del nostro paese, per gestire interessi di estremo rilievo di tipo nazionali attraverso percorsi non trasparenti. Ecco, ma c'è un aspetto che questa inchiesta, ma anche quella dell'anno scorso e anche inchieste di altro genere, stanno facendo emergere, che è il potere dell'informazione. Non parlo dell'uso dei media, quanto delle notizie, delle informazioni più o meno riservate, e questo chiama in causa direttamente la magistratura, usate come, diciamo, merce di scambio, almeno questo stando ai quadri accusatori. La prima cosa che vorrei chiederle è proprio questa, cioè se in qualche modo lei non nota che sempre di più il potere passi attraverso anche la conoscenza di informazioni privilegiate che attengono anche alla sfera giudiziaria. Sicuramente sì, qui c'è un conflitto continuo fra due Italie, quella istituzionale, dove ci sono meccanismi di controllo, bilanciamenti reciproci che impediscono a un altro tipo d'Italia, quella appunto degli interessi gestiti occultamente, di riuscire a fare fino in fondo il lavoro che ambirebbe a fare. Questo fa sì che le informazioni vengono alla luce, poi vengono insabbiate, e poi tornano alla luce, però poi cadono in un buco nero. Già l'anno scorso si aprì tutto un dibattito intorno alla questione morale all'interno della magistratura. Adesso di nuovo si parla appunto di funzionari, di forze dell'ordine infedeli e allo stesso tempo anche di magistrati o di ex magistrati arrivati in politica, come in questo caso, che però utilizzerebbero anche quel tipo di relazione. I personaggi che hanno quel tipo di cromosoma, diciamo così, che li rendono disponibili a gestioni di potere occulto, ci sono dappertutto e ci sono anche in magistratura, ovviamente. Ma la magistratura, che svolge un ruolo ben preciso, un ruolo molto delicato, ecco, come dovrebbe secondo lei rispondere? Trova che a volte ci sia una forma di autotutela della corporazione? È chiaro che nelle corporazioni ci sono sempre episodi di corporativismo, ma se ci sono reati che sono stati commessi, la magistratura, quella che appunto fa il suo lavoro senza cedimenti a altri tipi di interesse, dovrà applicare le leggi e dovrà applicarle anche nei confronti di eventuali persone che commettano reati facendo parte di quella corporazione. Ma secondo lei c'è una facilità eccessiva nel passaggio tra la toga e lo scranno del Parlamento? Io credo che i magistrati, proprio per la funzione che svolgono, l'unico vessillo che devono avere è la legge e i principi costituzionali che stanno alla base della legge. Per questo motivo io credo che se un magistrato decide di occuparsi di politica, di entrare in politica, andare in Parlamento, è bene che lo faccia prima di tutto facendo passare un po' di tempo, o addirittura vada a far politica in un'altra zona del paese dove non è conosciuto come magistrato, e poi non torni più a fare il magistrato. In effetti questa possibilità di mettersi in politica, poi di smettere di essere in politica, tornare a fare il magistrato, questa è una cosa che secondo me non è compatibile con la deontologia del magistrato. Quindi c'è effettivamente qualche cosa che andrebbe modificato. Per scaricare in podcast tutte le storiacce, www.radio24.it. Prima di lasciarvi vi anticipo che Storiacce la settimana prossima sarà a Lamezia Terme al Festival Trame sui libri di mafia, che Radio 24 comincerà a raccontarvi già da lunedì. Ve ne parlerò anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro blog. Ciao a tutti, e se siete a Lamezia vi aspetto.